è l'appello che davvero tutti auspicavamo. Il capo dello Stato italiano, da grande europeista, ha detto cose in cui io mi riconosco profondamente: più Europa per affrontare l'immigrazione, più Europa per dare un ruolo nella politica internazionale, più Europa per affrontare la crisi economica. Sono dei richiami che credo ogni persona di buon senso dovrebbe condividere. Il clima politico è molto surriscaldato in questi giorni. Che autunno ci si aspetta? Un autunno in cui, grazie al governo del presidente Berlusconi, vi sarà pace sociale, non vi saranno scontri, vi è una pacificazione che il ministro Tremonti ha definito uno dei risultati più importanti in un momento di crisi grave. Vi sarà un autunno in cui noi abbiamo detto disponibilità al confronto con le parti sociali, lo ha detto mille volte il ministro Sacconi, ma senza out-out o prendere o lasciare. Quanto al confronto, al dialogo con l'opposizione? Vede, c'è un'opposizione che finora ha preferito l'anti-berlusconismo come partito piuttosto che il confronto sulle idee. Ci sono materie come la politica estera che per principio richiedono un confronto con l'opposizione. Io ho detto mille volte che sono pronto, proprio qui a Cernobbio domani esprimerò alcuni miei pensieri e lo stesso farà l'onorevole Fassino, magari è un buon inizio.